essere come immagini, fine dei respiri, parto dei silenzi, viaggio fra gli oceani. Primavera porpora cade in ogni foglia, dentro ogni nuvola bagna il giorno e se ne va. E col sole tornerà. Baci immensi nella via, la tua rabbia sulla mia, resto di malinconia, spoglio della tua magia. Che ormai sembra andata via. Vera porpora cade in ogni foglia, dentro ogni nuvola bagna il giorno e se ne va, e col sole tornerà.